Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci, siamo pronti. Buona domenica a tutti voi da Gegè Telesforo e vorrei augurare buona domenica anche a Francesco Tromba. Buona domenica. Buona domenica a te. Avrai notato che il tono è rimasto quello di ieri. Dopo la dichiarazione che mi hai fatto, devo dire, questa notte non mi hai fatto dormire. Sono molto dispiaciuto, perché vorrei ricordare che Francesco Tromba, dopo tutto quello che ho fatto per lui, ti ho dato anche le chiavi del mio archivio personale. Hai fatto man bassa di discografia, di libri. Ti ho aperto praticamente il mondo del groove personale e tu mi tradisci così. Sinceramente, da te, da calabrese puro sangue, uomo d'onore, non me lo sarei mai aspettato. Ma non è un addio, è un arrivederci. Ah, non è un addio, sì, però tu mi abbandoni così per motivi economici, questa è la verità, perché hai preso un altro lavoro. Ma non mi hai detto che tipo di lavoro, non mi hai spiegato bene che tipo di lavoro hai preso. Devo lavorare in un call center, praticamente. Ma come in un call center? Ma sul serio? Sì. Ma scusami, tu non sei laureato in scienze della comunicazione? Infatti siamo quasi tutti laureati. Lì nel call center sì, tutti sì. Laureati? Sì. Vi pagano? Sì, ci pagano anche abbastanza bene per essere un consulente. Questa è una cosa buona. Vedi, uno si deve sporcare le mani. Sì, bisogna pagare. Per guadagnare in questo paese. Io invece ti ho dato la frutta che produco qui in campagna, delle albicocche, ma evidentemente non basta. Non basta per poter sopravvivere. Le bollette non si pagano con la frutta. Vabbè, però la musica quella aveva un valore forte. Sì, quella sì. Bene, signore e signori, ladies and gentlemen, siete in contatto con il soundcheck di Radio 24, il traditore Francesco Tromba è presente qui nello studio per affrontare insieme un'altra domenica carica di musica. Come sempre torneremo alle 19:15 per una seconda parte jazz. Tu non ci sarai perché stai per partire, per andare a fare questo lavoro nel call center. Auguri. Vorrei però affrontare questa prima parte parlando della danza, del ballo. Cioè, c'è gente che frequenta ancora le discoteche? Le discoteche esistono? No, perché io le ho frequentate pochissimo da ragazzo, per motivi proprio musicali. Sì, esistono ancora. Esistono ancora, funzionano, no? Sì, sì, sono una fabbrica di soldi. No, perché vedo che i ragazzi non frequentano più, cioè i ragazzi, i teenager. Quando io ero teenager, quando ero un ragazzo, andavo a vedere tutti i concerti che mi capitavano a tiro, cercando anche di evitare il biglietto in qualche modo, perché i soldi anche allora mancavano, e le discoteche le ho frequentate per un certo periodo della mia vita, esclusivamente per motivi... di gusti musicali? No, non per i gusti musicali. Ho frequentato le discoteche per avvicinare le ragazze. Ah, okay. Che è sempre stato un argomento interessante anche per me. Soltanto che poi la musica che si ascoltava nelle discoteche non era adatta alla mia personalità, e quindi ho capito che le ragazze le dovevo avvicinare con altri metodi e sistemi, non frequentando le discoteche. Però ogni tanto qualche serata giusta c'è. Giusta, ma ci vuole il DJ giusto. Io, per esempio, a Roma andavo a seguire le serate che faceva un DJ che si chiama Stefano De Nicola, che suonava la musica più bella, perlomeno per me e per i miei coetanei e amici appassionati di soul e R&B qui a Roma. C'era anche un altro DJ che oggi è famosissimo, che si chiama Giancarlino o Pierandrea De Professor, che suonavano musica bellissima, poi si sono adeguati al mercato e devo dire che suonano anche loro, fammelo dire, Giancarlino, nel locale, per avere successo suona delle cose. Sono le cose che si suonano, ecco, non voglio esprimere giudizi. Quando esprimo giudizi poi mi scrivono sull'indirizzo di posta elettronica e se la prende qualcuno. Ma non devi avere paura delle email che arrivano. Non ho paura delle critiche, soltanto che poi quando leggo la critica mi trasformo in una sorta di Cruciani della musica. O Sgarbi. Va bene, andiamo alla musica. Allora, oggi vi vogliamo far ballare, soprattutto vorrei muovermi anch'io qui nel Groove Master Studio, quindi... cerchiamo di suonare cose belle e ballabili soprattutto. Sei pronto per il groove? Prontissimo. Non hai l'abbigliamento adeguato. Adesso vado a cambiare. Ti sei messo in giacca e cravatta per andare nel call center. Da me venivi vestito come un disgraziato. L'impressione conta. Sì, è importante. Ma là non ti vede nessuno, stai al telefono. No, però comunque ci sono i datori di lavoro che ti controllano. Oh mio Dio. Sean Escoffery, Nature's Call. E questo lo voglio ballare dalla A alla Z. John Escoffery, Nature's Call, questo brano quotatissimo su Soul Tracks, il sito più importante per la comunicazione che riguarda la soul music e l'R&B di oggi. Sean Escoffery, uno dei più quotati in questo momento, e ce n'è un altro che mi piace tantissimo. Ecco, se la musica di Sean Escoffery con questo brano Nature's Call ha un'atmosfera, produce un'atmosfera solare e divertente, questo signore invece è un po' più cupo ma molto molto interessante. Si chiama Jesse Boykins III, il brano è Plain e ce lo gustiamo qui al Soundcheck di Radio 24. Che ne dici? Bellissimo. Bellissimo. Fammi vedere come balli, tromba. Soundcheck. Il suono della musica. Se negli anni Ottanta andavo nelle discoteche e speravo di ballare, che so, gli Earth, Wind & Fire, quella era la musica che mi piaceva in quel periodo, negli anni 90 fortunatamente alcuni disc jockey anche italiani suonavano il repertorio dell'Easy Jazz, movimento culturale e musicale lanciato dal disc jockey della BBC Giles Peterson, poi producer per la Talking Loud di alcuni degli esponenti principali del genere, fra i quali Omar, che abbiamo ascoltato qui al Soundcheck di Radio 24 con uno dei suoi successi di quel periodo, Music. Insieme a Omar, per esempio, Francesco Tromba, per vedere la tua preparazione, a quale livello è arrivata con me, qual era un'altra band di riferimento? Gli Incognito, vedi... anche Ronnie Sides. Vedi Brand New Heavies, insomma tutti gli artisti soul e R&B inglesi di quel periodo venivano catturati da Giles Peterson e prodotti per la Talking Loud. Il signor Omar continua a fare scintille, continua a produrre musica, fortunatamente si è lasciato sfiorare dal movimento lounge. No, dice, direi che non si è neanche fatto sfiorare. Non si è fatto neanche sfiorare, cioè è stato sfiorato nel senso che se ne è fregato completamente. Sì, sì. Meno male, no? Perché noi abbiamo avuto il periodo dopo l'Easy Jazz, c'è stato il momento del lounge, no? Del divano. Sì. Lounge, come si chiamava? Chill out. Chill out. Chill out, poi c'era la chill house e poi c'erano tutta una serie di Buddha's Bar, di Caffè del Mar e una serie di generi che finivano in Nar, tutta musica che non era secondo me né carne né pesce. Era adatta a dormire. Cosa è rimasta di quella musica? nulla. Hai visto? Te lo dicevo. Perché quando si ascolta musica dalle casse dello stereo hi-fi, perché io sono old school, deve venire fuori l'afrore del musicista, l'afrore del compositore, del batterista, il groove potentissimo che ti emoziona. Non parlo soltanto di funk, ma parlo anche di jazz, ma anche di musica classica. Lo senti subito se c'è qualcosa che ti emoziona o che ti lascia così sul divano come una fetta di mortadella. Sì, è la differenza fra, diciamo, l'anima che viene trasmessa tramite appunto la musica vera e propria rispetto alla... il freezer, potremmo dire. Il freezer. Allora, musica chill out. Vediamo il signor Omar a distanza di 20 anni invece che cosa combina. Omar torna, è tornato ultimamente con un album intitolato The Man, e qui lo ascoltiamo con Karen Wheeler in Treat You, qui al Soundcheck di Radio 24. Second dreaming of how things used to be. Now I'm so much in sorrow. Baby, tell me it's useless. Tell me we can't go on. I wanna know. I can't take it. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. L'informazione di Radio 24 e dopo la bravissima Alice Russell, altra protagonista della scena inglese con For a While, siete di nuovo in contatto con il Soundcheck di Radio 24. Alice Russell mi piace tantissimo, e mi piace tantissimo la scansione ritmica per questa sua composizione, che ci porta un po' indietro agli esperimenti ritmici di Jay Dilla, poi con l'evoluzione, che ne so, di D'Angelo e i grandi batteristi di oggi, da Chris De Didei fino a Mark Kohlenburg. Avrei notato che il movimento era proprio quello. Ho caro visto che eri molto preso, stai addirittura ballando. Sì, perché il bacino mi si muove da solo quando sento queste ritmiche. A proposito di ballo, però, non so se tu guardi ogni tanto Ballando con le Stelle, se ti capita. Ballando con le Stelle? Ma sì. Perché ieri sera hai visto Ballando con le Stelle? Ieri no, però ogni tanto uno sguardo glielo do. A Ballando con le Stelle? Ma sì. Perché guardi Ballando con le Stelle? Intanto perché, vabbè, ci lavora una mia amica. Però lo metto come sottofondo per vedere, diciamo, fino a che punto arriva. Fino a che Rai. Punto arrivano che cala. Ah, così, per sperimentare anche il fisico, perché sono programmi che durano più di Ben-Hur. Sì, praticamente no, 3 ore e mezza. 3 ore e mezzo di programma. Anche X Factor dura 3 ore e mezzo. Perché devono durare così tanto questi programmi? Io vedo X Factor un po' l'hanno ridotto. L'hanno ridotto a 4 ore e 50. No, quando inizia alle 9 qualcosa, poi finisce sempre dopo mezzanotte, no? Sì, però... è stessa cosa con Ballando con le Stelle. Io vedo le versioni americane e inglesi e non durano così tante. Vengono editate e si va al sodo, alla votazione, si vede l'esibizione, qualche commento e via, insomma c'è una post-produzione. Invece da noi i programmi li fanno in diretta e durano 3 ore e mezzo e mettono a dura prova la prostata, no? Per dire, no? Se non hai il bagno a disposizione sei rovinato. Sì, anche perché magari siamo abituati alla televisione degli anni 60-70, quando c'era un unico programma magari durante la settimana, e quell'unico programma durava 3-4 ore. 3-4 ore, sì, però scusami, non possiamo mica parlare. No, i livelli erano diversi, ovviamente. C'era il fiorfiore, la creme della creme degli artisti italiani e internazionali in quei programmi. Sì, dal punto di vista della qualità no, però dal punto di vista della durata. curata. No, la cosa è che si vede la televisione un po', ecco, per spiare, ecco, e per vedere fino a che punto possono arrivare. D'altra parte, a Ballando con le Stelle, il divertimento sta proprio nel veder ballare persone che non lo fanno professionalmente, sta tutto sì, lì. Infatti potresti andare pure tu, che ne dici? A Ballando con le Stelle? Secondo me saresti bravissimo. Guarda, io vorrei andare a Ballando con le Stelle soltanto per conoscere Caroline Smith, la voce di Ballando, quello mi piace un sacco. Guglielmo Mariotto, 9! No? E quello è fortissimo, quel tipo. Un DJ formidabile, avranno fatto dei provini. E poi andrei a Ballando con le Stelle per fare un balletto con Milly Carlucci, che ho sempre... stimato? Stimato e poco. Ho sempre avuto il debole per Milly. Ah. Ma sì, dall'altra domenica, quando ero ragazzino, e lei era l'altra domenica, ed è stata campionessa di pattinaggio, no? Fisico tonico, avrei notato, sì, che sì, alla sua bella età continua a avere quella freschezza. Sì. Milly Carlucci con Ballando con le Stelle. Vale la pena vedere il programma soltanto per Milly Carlucci, eh? Forse è giusto. Non per Ivan Zazzaroni, no, che non si sa che cosa fa lì Ivan Zazzaroni. Deve pagare le bollette. Pure lui, come te, devi andare a fare il call center. Non si pagano da soli. Mamma mia. Alice Russell, discograficamente, torna anche affiancando un grande DJ inglese. Il signore si chiama Quantic, bel nome, Quantic, sì, perché da DJ quantizza, giustamente. E Quantic con Alice Russell. Il tutto in un remix del campione del mondo dei remix di questo momento, il signore di Brooklyn, Ahmed Sirur. Il brano è You Will Return, Quantic, Alice Russell, nel remix di Ahmed Sirur al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. A grande richiesta, un altro remix di Ahmed Sirur da Brooklyn per I Wish di Stevie Wonder. Meravigliosa questa versione creata da questo producer americano della nuova generazione che si sta divertendo un sacco, mettendo in bella mostra su SoundCloud tutta la sua produzione e la sua creatività. Sì, vi consiglio di seguirlo perché veramente è molto produttivo, in media ogni 20 giorni carica qualcosa di nuovo su SoundCloud. Esatto, e tra l'altro hai visto che c'è una notizia importante che riguarda SoundCloud. Sì, una parte di SoundCloud è stata acquistata dalla Warner. Caspita! Circa tra il 3 e il 5%, ancora non si sanno perfettamente le cifre. Vedi, le multinazionali hanno capito che devono muoversi anche su altri versanti. Sì, la cosa più assurda è che comunque SoundCloud è uno dei social network musicali, potremmo chiamarlo, più con utenti maggiormente attivi in assoluto, cioè circa tra i 350 milioni e i 175 milioni, e finora non aveva neanche un secondo di pubblicità, quindi non monetizzava in nessun modo. Quindi che cosa pensi? Che adesso con l'ingresso della Warner Bros. Nella società arriverà, sì, anche la pubblicità? Sì, sì, l'hanno annunciato già, ci sarà una parte di pubblicità, speriamo non eccessiva come succede su speriamo altri. Di no. Allora, noi siamo quasi ai saluti per questa prima parte, poi ci risentiamo alle 19:15. Tu non ci sarai perché in giacca e cravatta stai per muoverti per andare già nel call center. Quando ti rivedo? Un mesetto, forse un po' meno. Allora devo fare i provini subito? No, come? Già i provini? No, beh, scusami, io ti devo sostituire assolutamente. No. Allora apriamo subito il mercato, apriamo il mercato per fare, mi servono delle stagiste. Basta con questi calabresi uomini con la barba e questo aspetto da intellettuali ex di sinistra. Vorrei delle stagiste vabbè, fisicamente lasciamo perdere, va. Andiamo avanti con la musica. Chiudiamo questa prima parte con una band fortissima. Si chiamano Restless Soul Fun Band. Il brano è It's Hard e ci sono anche poche notizie che riguardano questa band guidata da Phil Husher. Sì, sì, è lui il creatore di questo collettivo di musicisti. È sempre stato attivo nel, diciamo, nel panorama underground di Londra. Ha creato diverse case discografiche molto di nicchia, per... quindi indipendente anche sì, sì. Lui, allora godiamoci Restless Soul Fun Band qui al Soundcheck. Noi ci risentiamo più tardi, mio caro amico, e noi ci vediamo fra un mese. Allora in sì. Bocca al lupo, crepi, e fammela qualche telefonata. Stai in un call center, non spendi nulla. Sì, comunque penso di mandarti un po' di musica, di informazioni. Sì, sì. Non credo che ne avrò bisogno, non avrò bisogno di te, perché se non vieni qui avrò bisogno di una bella stagione. Ricordati. Adesso cercheremo qualcuno, dai. Sound Check, il suono della musica di Gigi Telesforo. Che faccio? Stacco io? Allora, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Molto. Sì, buonasera a tutti, siete in contatto con il Soundcheck di Radio 24 in diretta dal Groove Master Studio in compagnia di Anu Manouche, una formazione che, come avrete ben capito, eseguendo questo brano intitolato Jungology, ci riporta indietro nel tempo, esattamente agli anni 30, quando il jazz americano arrivò a Parigi e incontrò il talento di quello che poi diventò col tempo uno dei chitarristi più importanti del momento, il gitano, lo zingaro Django Reinhardt, belga di nascita ma dell'etnia Manouche, che appassionato di jazz e di swing riuscì con le poche dita che gli erano rimaste dopo l'incendio che lo sorprese nella sua roulotte a rivoluzionare il mondo della chitarra. E questo è il sound tipico dello swing Manouche, formazione di plettri, ovvero due chitarre, una chitarra solista e una chitarra ritmica che si rifà alle ritmiche proprio tipiche della batteria, quindi con lo swing, chitarra che suona il pump, questo è lo stile della chitarra ritmica, e poi il contrabbasso. E questi nostri amici, gli Anu Manouche, sono venuti a trovarmi qui nel nostro studio per parlare di swing Manouche, parlare di musica, e quindi buonasera Anu Manouche, ovvero Moreno Sorbelli, lo pronuncio alla francese con questo baffetto che si è fatto crescere, questo giovane chitarrista 21enne iscritto al Conservatorio di Santa Cecilia e studia chitarra nel Dipartimento di Jazz, Alessandro Virgili chitarra ritmica e Simone Calcagni al contrabbasso. Sì, giovanissimi ma con la passione per lo swing, la passione per la musica che arriva dal passato. E allora, per andare direttamente alla musica, direi di partire con Birelli Lagren, che accompagna la voce di Sarah Lazarus in un classico di Cole Porter intitolato It's Alright With Me, qui al Soundcheck di Radio 24. Thank you. time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not his face, but it's a charming face. That it's all right with me. It's the wrong song. Eh sì, l'applauso scatta spontaneo quando a suonare la chitarra c'è un virtuoso come Birelli Lagren, che ha accompagnato la bravissima Sara Lazarus, una vocalist della nuova generazione residente a Parigi ma credo abbia origini canadesi, in It's Alright With Me, standard di Cole Porter. Come vi dicevo, sono in compagnia di tre amici che hanno la passione per lo swing, la passione per il sound tipico dei Manouche, ovvero Moreno Sorbelli, 21 anni, Alessandro Virgilio, ne ha 41, Simone Calcagni 29, quindi generazioni a confronto che si cimentano su uno stile antico ma sempre attuale. Lo swing manouche è ancora in voga, fortunatamente, perché credo che in questo momento non ci sia nulla che riesce a donare felicità e al tempo stesso un po' di malinconia. Qual è, secondo te, Moreno o Alessandro, non so chi vuole rispondere, la magia di questo stile immortale? Beh, certo, la magia di questo stile è proprio, la, secondo me, la situazione acustica. La situazione acustica che va a toccare proprio delle emozioni molto particolari. Cioè, la musica elettrica spopola oggi, la musica acustica deve avere il suo giusto ambiente, il suo giusto spazio. E secondo me è anche più facile da proporre in un qualsiasi locale, che sia esso un pub, che sia esso un ristorante. Adesso mi viene in mente questo. Sì, bastano tre strumenti. Bastano tre strumenti, non c'è bisogno di nessuna amplificazione, se non un piccolo aggiustino, un piccolo aiutino. Però ecco, possiamo suonare in qualsiasi situazione e arriviamo alla gente. Questo ecco, è io vi ho importante. Coinvolto qui al soundcheck perché qualche sera fa sono venuto ad ascoltarvi in, sì, in un locale molto carino, e la cosa mi è piaciuta talmente tanto, e oggi siamo qui insieme a parlare di musica e anche a fare musica, quindi intanto vi ringrazio per aver accolto il mio invito. Grazie a te. E oggi ascoltiamo musica, quindi anche il pretesto per ascoltare qualcosa che ci riporta indietro nel tempo, anche se eseguito da musici contemporanei. Fra i più grandi interpreti del genere, l'abbiamo detto, c'è Birelli Lagren. Anche lui è un gitano come Django Reinhardt. Oggi lo stile si sta diffondendo, ma Birelli Lagren, che ha suonato di tutto, è passato anche dal jazz contemporaneo, avendo suonato con le formazioni di Jacopo Astorius quando era giovanissimo. Io lo vidi anche in concerto a Roma, aveva soltanto 17-18 anni. Comunque continua a girare il mondo proponendo la musica a lui cara, ovvero lo swing manouche. Allora ascoltiamo questo esperimento di Birelli Lagren con il Gypsy Project, da un album intitolato Just the Way You Are, quindi non uno standard di jazz ma una composizione di Billy Joel rivisitata in stile swing manouche da Birelli Lagren qui al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. 'Cause honey, this Molly is feeling fine. La voce della veterana Molly Johnson, canadese anche lei come Sara Lazarus, che ha interpretato Sister, ovvero Miss Silly's Blues, una composizione scritta da Quincy Jones, Lionel Richie e Rod Temperton, tratta dalla colonna sonora del film The Color Purple, il colore viola. Tanto per farvi capire che i compositori contemporanei naturalmente hanno ancora oggi la passione per il suono antico, non si dimentica mai tutto quello che c'è stato di buono. E da Molly Johnson, di nuovo qui nel Groove Mastery Studio, in compagnia degli Anumanush, formazione che ricorda lo stile classico di Django Reinhardt, lo swing manush, con Moreno Sorbelli, 21 anni alla chitarra, Alessandro Virgili, chitarra ritmica, e Simone Calcagni al contrabbasso. E Moreno Sorbelli, giovanissimo, ormai sta quasi per ultimare, credo che sia arrivato all'ultimo anno nel Dipartimento di Jazz del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, quindi al terzo anno di chitarra, e quest'anno mi sa che dovrei prendere il tuo diplomino o la tua laurea, no? Sì, speriamo bene, insomma. Speriamo bene, però insomma mi sembra che tu abbia fatto, intanto da quando io ti conosco, insomma eri giovanissimo, avevi 14-15 anni, abbia fatto dei grandissimi passi avanti. E poi la cosa bella è che pur suonando swing manush sei un appassionato di tutta la musica, ti piace tutto? Sì, diciamo abbastanza. Poi si vedrà, insomma, poi farai delle scelte. Ma come mai hai scelto la chitarra e che cosa pensi per il tuo futuro? Riuscirai a sopravvivere con la musica e da musicista? La scelta della chitarra è stata, tra virgolette, indotta da papà, ma non in maniera vincolante. Cioè, io ero piccolo, lui dentro casa suonava la chitarra, è nata questa passione e è continuata. Ma come ti sei avvicinato allo swing manush? Anche papà è un appassionato del genere, avevi dischi di Django Reinhardt a casa, Birelli? Sì, praticamente a casa si sentiva solo quello, e quindi per forza di cose poi uno si appassiona. Eh sì, ce l'hai nel DNA allora lo swing. Che cosa succede al Dipartimento di Jazz di Roma? Come funzionano le lezioni? Le lezioni funzionano, c'è l'insegnante, si va lì, insomma, si segue anche tutti insieme, insomma. Però insomma ci sono varie materie, non è che vai lì e suoni solo lo strumento. No, ci sono diverse materie, diversi corsi, dalla storia della musica al solfeggio, a strumento, musica d'insieme, insomma, big band. Quali sono gli obiettivi di un giovane musicista oggi iscritto al conservatorio? Gli obiettivi in genere di musicista, secondo me, sono crescere il più possibile musicalmente, conoscere gente perché è fondamentale, e suonare, perché se non si suona, insomma, c'ha poco senso il tutto. Hai ragione. Scrivi anche musica? Ci provo, piano piano qualche cosa uscirà. Quando scrivi, a quale genere ti avvicini? Ma no, non mi pongo questo limite, cioè scrivo nel momento in cui sento che arriva qualcosa, cerco di appuntarmelo per non dimenticarlo. Vabbè, insomma, ti auguro di scrivere bella musica, perché avrai capito che i dischi non si vendono più. Mi dispiace per te, dispiace anche a me, naturalmente. Li comprano in pochi, quindi oramai i guadagni per un musicista si riducono alle performance dal vivo e alle composizioni. Quindi la musica continua a girare, non lo fa la discografia, ma una bella composizione ti può portare senz'altro fortuna. Magari la prendono per una colonna sonora di un film, per una pubblicità, e allora lì si iniziano a incamerare un po' di soldini. Siccome abbiamo detto che non si dimentica il passato per essere dei musicisti che vivono il presente e sono sempre proiettati nei confronti del futuro, ti do un esempio, ovvero questa ragazza americana che si chiama Cat Edmondson, insieme a un veterano del blues come Lyle Lovett, ha realizzato un brano contemporaneo ma in stile classico, non voglio dire swing manush, ma ci riporta anche questo brano indietro nel tempo. Il brano si intitola Long Way Home, e qui al soundcheck di Radio 24 la carinissima, ti faccio vedere la fotografia di Cat Edmondson, eccola qua, che dici? Mica male, faresti un giro? Vabbè, Cat Edmondson al soundcheck di Radio 24 con Lyle Lovett, mentre Anumanush deliziano anche le mie orecchie. I'll be all right. Can you hear me? Me. Soundcheck, il suono della musica. E oggi qui al Soundcheck di Radio 24 abbiamo abbandonato le sonorità contemporanee del jazz per fare un salto nel passato, riportarci agli anni 30, quando lo swing e gli standard americani arrivarono in Europa, esattamente a Parigi, e un signore come Django Reinhardt, con il suo braccio destro, il violinista Stéphane Grappelli, diede vita a un vero e proprio stile che poi arrivò anche negli Stati Uniti, tant'è vero che Django Reinhardt ha avuto anche la fortuna di collaborare con dei mostri sacri del jazz americano, fra i quali Duke Ellington. Oggi quindi parliamo di swing e approfittiamo anche per la presenza nel nostro studio di Anu Manouche, una, posso dirlo, delle tante formazioni che ricordano il lavoro di Django Reinhardt in giro per il mondo. E la cosa che mi sorprende è che proprio i più giovani, come per esempio il nostro Moreno Sorbelli, ti piace se lo pronuncio in francese? Alla francese, sì, ti piace? Moreno Sorbelli, 21 anni, invece di dedicarsi al rock and roll o al contemporary R&B, per dirne una, ritrova il piacere, il gusto, l'approccio con il suo strumento attraverso lo swing manouche, quindi l'opera di Django Reinhardt. Allora, mio caro Alessandro Virgili, visto che sei quello più maturo, se non altro da un punto di vista proprio cronologico, durante i vostri concerti sei anche quello che introduce e racconta un po' le storie dello swing manouche, che cosa ci volete far ascoltare e perché? Sì, proponiamo adesso un brano sempre di Django Reinhardt, che è intitolato Ungaria, e proprio in virtù di quello che tu dicevi, cioè della fusione, no, tra il jazz americano e lo stile manouche, proprio questo pezzo, secondo me, è quello che più di tutti incarna questa proprio fusione, la prima fusion, secondo noi, no? È vero, sì, una fusione di stili, perché c'è lo swing, si utilizzavano gli standard come repertorio, come progressioni armoniche per poter improvvisare, e poi c'era questa particolare predisposizione dell'etnia manouche nei confronti del ritmo e dello swing, e avevano anche una formidabile abilità sui loro strumenti. Ecco, un'altra piccola differenza da un punto di vista musicale è che, se nel jazz, poi nella sua evoluzione, l'improvvisazione utilizza le scale e i modi, invece nell'improvvisazione sullo swing manouche si lavora sugli arpeggi degli accordi. È giusto? Ho sbagliato? Giustissimo. Quindi comunque ci vuole una bella preparazione e soprattutto ci vuole molta pratica. Abbastanza, io. Allora, quindi Ungaria, questo è un altro brano originale scritto da Django Reinhardt. Più o meno di che periodo stiamo parlando? Stiamo parlando sempre degli anni 30. Sempre anni 30, sì, sì. Va bene, quindi facciamo un salto, torniamo a Parigi negli anni 30, siamo in un bellissimo bistrò pieno di fumo e con tanto vino rosso. Eccoli qui, Anu Manouche, è qui per voi, per Radio 24, al nostro Soundcheck. Chi sta che il tempo? Io. E fallo, vai. Questa era Ungaria, un brano scritto da Django Reinhardt, ricordato dai nostri Anu Manouche, i nostri amici, ospiti del Soundcheck Radio 24, qui dal Groovemaster Studio, ovvero Moreno Sorbelli, mi piace molto pronunciare il tuo nome con l'accento francese, Alessandro Virgili, chitarra ritmica, ovvero il Pump, e Simone Calcagni al contrabbasso. Grazie tantissimo, ragazzi, per essere stati con noi, vi ringrazio. Volete salutare amici e parenti? La mamma. Vabbè, l'hai fatto. Salutiamo la mamma. Come si chiama la tua mamma? Divina, che meraviglia. Ciao Divina, saluto anche tuo papà, Lillo, che conosco bene. Grazie ragazzi per essere stati con noi, e noi vogliamo omaggiare adesso un grande maestro italiano che purtroppo non è più con noi. 88 anni, scomparso il primo di novembre, ha lasciato questo mondo il maestro Renato Sellani, che probabilmente, anzi sicuramente, in paradiso starà continuando a suonare tasti neri e tasti bianchi, li ha suonati tutti quanti per tutta una vita con i grandi esponenti del jazz italiano e internazionale, addirittura con Chet Baker, ha avuto la fortuna di conoscere e incontrare anche Billie Holiday, ha lavorato tanto con Franco Cerri e negli ultimi anni insieme al suo trio con Massimo Morricone al contrabbasso e Massimo Manzi alla batteria, ha veramente fatto capire a tutti noi che la musica mantiene giovani. E Renato Sellani ha fatto appena in tempo a vedere pubblicato il suo ultimo album, un doppio CD intitolato Glad There Is You, una prima parte, un primo CD dove interpreta da solo con il suo pianoforte alcune composizioni che hanno reso importante il repertorio della musica leggera italiana, e poi un secondo CD con tutti i standard di jazz e quindi la sua passione. Proprio da questo secondo CD vi faccio ascoltare, per ricordare il maestro Renato Sellani, questa sua interpretazione di un classico come Moon River. A tutti voi buona serata e buona musica e buona settimana. Ci risentiamo sabato prossimo, sempre qui al Soundcheck su Radio 24. A tutti voi buona settimana da Gigi Telesforo e Anu Manush. Salutate ragazzi. Ciao.